può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Ed eccoci di nuovo ritrovati tutti insieme questa mattina per parlare di quel che si può fare a casa. Non fate i maliziosi e pensate a cosa si può fare a casa. La casa in fondo è protezione, tranquillità e riposo. In questo periodo direi anche un po' prigione, però insomma pensiamo all'aspetto positivo del tutto, pensiamo anche ai lavori domestici che ci divertono, per esempio il bricolage, almeno nel mio caso è un gran bel passatempo e lo è stato anche nei mesi scorsi. E poi ci sono lavori domestici che invece dobbiamo fare, magari non ci fanno tanto piacere così nel momento in cui li compiamo, ma stiamo facendo il nostro dovere nei confronti del pianeta, della città che ci ospita. E sto parlando ovviamente della raccolta differenziata. Insomma, diteci cosa si può fare a casa, cosa vi suscita. 824 0024 per le telefonate, c'è sempre il 349 238 6666 per i vostri messaggi, sia SMS che WhatsApp. E andiamo al primo tema e al primo ospite di questa puntata. Come vi ho anticipato, andiamo a parlare all'inizio di raccolta differenziata, croce e delizia delle nostre case, perché insomma ci siamo costretti a avere in casa tanti bei bidoncini e ci farebbe piacere però non dover passare tanto tempo nell'analisi del materiale che ci troviamo in casa e capire immediatamente se si tratta di plastica, se si tratta di carta o vabbè, il vetro, quella è l'unica cosa chiaramente riconoscibile. Marco Frei, professore ordinario di economia e gestione delle imprese, direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Croce e delizia anche per voi, immagino, questa del packaging, degli imballaggi. Ne avete parlato recentemente in un convegno in cui sono stati riferiti i dati, i risultati della ricerca, i nuovi modelli di consumo e la riprogettazione del packaging, leggo tutto, la scelta di materiali sostenibili nell'era dell'economia circolare, una ricerca fatta per Comieco, che è il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, quelli specificamente diciamo di carta, cartone, cartoncino e via dicendo, ma la questione investe tutto, il professore, no? Sì, assolutamente. Gli imballaggi sappiamo che sono la componente più rilevante dei rifiuti solidi urbani, quindi quelli per cui noi siamo coinvolti come cittadini, come lei sottolineava, nella raccolta differenziata. Nella raccolta differenziata siamo diventati bravi, nel senso che negli anni i cittadini, se adeguatamente informati e coinvolti, sono molto partecipi, e quindi il problema poi diventa dare anche le corrette informazioni su come differenziare in maniera adeguata, perché poi più si differenzia più valore si crea a quelli che non sono più a quel punto rifiuti, ma diventano potenzialmente materia prima seconda. E certo, e risorse, quindi, a quel punto, non più rifiuto ma risorse. Quindi su questo sappiamo ancora che ci sono delle grandi differenze quando ci spostiamo tra un comune e l'altro, magari cambiano leggermente le regole, però diciamo che si sta andando assolutamente nella buona direzione pian piano in tutta Italia, e ci sono delle città, dei comuni che sono assolutamente eccellenti da questo punto di vista. Ma il tema della ricerca in realtà riguardava un altro elemento evolutivo nel processo creazione degli imballaggi per poi facilitarne lo smaltimento, e da questo punto di vista noi ci siamo concentrati sui nuovi materiali che possono essere utilizzati all'interno degli imballaggi, in una tendenza che con Comieco si sta analizzando costantemente sull'innovazione prodotta all'interno degli imballaggi. Mm-hmm. Sappiamo benissimo che le due sfide che oggi anche l'Europa ci pone sono quella, da un lato, di diventare sempre più green, perché questo ovviamente ci consente di gestire meglio il nostro rapporto col pianeta, complessivamente inteso, ma dall'altra parte anche utilizzare il digitale il più possibile, quindi utilizzare le nuove tecnologie per andare in questa direzione. Ecco, ma nuove tecnologie in questo contesto per l'acquisto ad esempio di prodotti e allora, poi che arrivano a casa nostra con imballaggi ovviamente. Esatto, allora ci sono le tecnologie per l'acquisto, e qui rientriamo nel punto iniziale che lei ha sottolineato, quello che possiamo fare a casa, e nel caso specifico sappiamo che il food delivery è una componente che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Tenete conto che è cresciuto del 56% tra 2019 e 2018. C'è tecnologia anche negli imballaggi, perché ci sono gli imballaggi intelligenti, quelli che sono capaci per esempio di allungare la shelf life, la durata prodotto, fondamentali. O quelle che segnalano, non so, sui farmaci per esempio, che è il momento di prendere un determinato farmaco perché hanno un timer incorporato. Ce ne sono di tantissimi tipi. Ovviamente riguarda anche poi i materiali, perché il tema dei materiali è la grande sfida dell'economia circolare, quella componente concreta che c'è dentro la transizione green su cui l'Europa ci vuole spingere, perché così riusciamo a riutilizzare di più le risorse, che sono scarse, sempre più scarse, perché sono in tanti sul pianeta. In quest'ottica l'analisi ha riguardato proprio quali possono essere i nuovi materiali da utilizzare negli imballaggi. E qui c'è una fonte che è interessante, che è a base organica, quindi come sta capitando tantissimo, cerchiamo di riutilizzare gli scarti che abbiamo, non so, per esempio nei pomodori. Soprattutto nei pomodori noi abbiamo la possibilità di riutilizzare questo materiale a base di cutina che viene usato per la ricopertura e il rivestimento delle lattine di prodotti alimentari in scatola. Quindi dal ciclo della lavorazione, immagino, dei pomodori, non so, uno fa i pelati e quindi poi dopo ha degli scarti. Le bucce, no, che vengono scartate, vengono utilizzate da questo punto di vista. Oppure, uno più interessante ancora, per citare quelli di origine animale, è l'estrazione del chitosano, che è una sostanza naturale che viene utilizzata dai crostacei per dare durezza e resistenza a gusci e corazze. Da lì si estrae un polimero, ovviamente di origine naturale, che è utilizzato per la ricopertura in sostituzione alla plastica. Ma il gioco vale la candela, insomma, è una cosa fattibile, con coerentemente, insomma, costosa? No, non assolutamente, nel senso che poi, come in tutte le cose, i materiali più di nuova concezione richiedono un po' di tempo per essere utilizzati. Però, citandone invece uno che conosciamo tutti molto bene, sono le bioplastiche. Mm-hmm. Bioplastiche, ovviamente, bisognerebbe fare un po' di chiarezza. Noi vogliamo le bioplastiche che siano sia biodegradabili che prodotte da fonti rinnovabili, ma assolutamente ci sono, e queste le abbiamo viste, no? Per esempio il Mater B è quella che conosciamo di più, i sacchetti in plastica che prendiamo ai supermercati. C'è una terza tipologia però di nuovi materiali molto innovativi, che sono i nanomateriali, quindi diciamo che sono soluzioni con componenti piccolissime, no? Costituite da componenti che vanno tra 1 e 100 miliardesimi di metro, e con questi si fanno tante cose, tra cui anche gli imballaggi, e noi abbiamo approfondito in particolare una frontiera che sono le nanocellulose. Quindi, partendo dalla carta, ovviamente, intervenendo sulla parte formativa della carta, quindi rompendo la membrana delle cellule vegetali che rilasciano nanofibrille e nanocristalli, c'è anche una tecnica di tutto questi anni ci sono già persa, sì. Sì, certo, era solo una citazione tecnica, però si creano queste nanocellulose che sono leggere, rigide, resistenti sia dal punto chimico che della trazione, e modellabili. Non so, per fare un esempio che è fuori dagli imballaggi, al Salone di Tokyo 2019 è stata presentata una autovettura fatta in larga parte di nanocellulose, perché queste vantano una resistenza alla trazione superiore a quella dell'acciaio e sono servite sia per parte della carrozzeria che per parte dell'abitacolo. Noi poi ci siamo concentrati invece su una nanocellulosa che si sta diffondendo nel mondo proprio per gli imballaggi, perché avendo queste caratteristiche può essere utilizzata insieme alla carta per avere poi un materiale che è unico, e ritorniamo alla raccolta differenziata. Perché è fondamentale, certo, perché se noi poi li mescoliamo in una maniera inscindibile non riusciamo più a differenziarli. Esattamente, mentre se è tutta carta si può, nel senso che a quel punto non solo si può, ma può andare sia nella parte separata della carta, sia volendo anche nell'organico. E lì si supera il problema dei poliaccoppiati, perché questi poliaccoppiati che usiamo normalmente, pensiamo al tetrapack, da questo famosissimo, sì, ci sono voluti degli anni per riuscire a capire come trattarlo. Si è dovuto lavorare sia meccanicamente che tecnicamente per separarlo. Usando le nanocellulose invece noi abbiamo un materiale che ha contemporaneamente la funzione, che so, il cartone che protegge, ma dall'altra parte la nanocellulosa invece serve a garantire quella funzionalità di separazione, eccetera, eccetera, che è propria delle plastiche che noi oggi utilizziamo. Allora, ci dobbiamo fermare un secondo. Certo, ci dobbiamo fermare un secondo, professore, se può restare con noi, dopo la viabilità proseguiamo. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel e vi dice già chi ci sta per così raggiungere questa canzone Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Lui è Giampiero Calzolari, che è il presidente di Granarolo. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Ci perdoni lo scherzo, ma non abbiamo resistito. Allora, abbiamo in collegamento anche Marco Fei, professore Frey, professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Voi recentemente avete partecipato appunto a questo convegno nel quale si sono presentati i risultati della ricerca di chiesta da Comieco, ricerca e sviluppo sul packaging. Voi ci avete puntato molto e avete cambiato alcune linee proprio con packaging nuovi. Che cosa avete scelto? Sì, noi abbiamo scelto di muoverci per quanto riguarda il packaging su due fronti sostanzialmente, anzi forse tre potremmo dire. Comunque, cioè, il più immediato, se vogliamo, il più disponibile è la riduzione fisica della grammatura. Può sembrare una cosa poco rilevante perché magari non si percepisce, però siccome noi produciamo, come noto, tanti volumi, tante unità, tante bottiglie, tante confezioni, è importante lavorare sulla riduzione della grammatura. Noi usciremo per esempio subito dopo le festività con una bottiglia che riduce dell'ulteriore 15% la plastica di tutte le nostre bottiglie di latte. Per dare un numero significa 1450 tonnellate di plastica in meno all'anno, che è un numero importante, soprattutto se lo riportiamo in termini di CO2. E certo, anche di rifiuto quando poi dopo, no? Il prodotto è assolutamente, stato... Assolutamente, perché noi, come diciamo sempre, non è responsabilità nostra, no? Una volta consegnato la bottiglia o la confezione nel negozio, quello che succede dopo, però non possiamo non farci carico eticamente del fatto che esiste un problema a valle, no? Quindi quando vediamo le bottiglie nei mari, eccetera, ci mancherebbe altro che non dobbiamo farcene carico, e quindi sicuramente c'è questo tema, ma anche in una logica di corretta gestione. Quello che possiamo evitare di immettere nel ciclo dei rifiuti è assolutamente pregevole. L'altro impatto, invece, l'altra iniziativa importante è l'utilizzo di materiale riciclato. Anche qui è possibile utilizzare le nostre confezioni di bottiglie il RPET, cioè quindi un prodotto che è a base di materiale riciclato. Oggi la legge ci consente un 50% per ogni confezione di materiale riciclato e si sta lavorando per raggiungere il 100%, tecnicamente fattibile. Calzolari, la tengo un attimo in attesa. Ah no, prego, dica qual è il problema. No, ce lo dica il problema perché io intuisco, mi dica. Sì. Il RPET non c'è, il materiale riciclato in questo paese non ce n'è, noi dobbiamo importarlo da altri paesi. Per cui stiamo lavorando insieme anche con i consorzi e anche le municipalizzate per mettere a punto una rete di ecocompattatori, così come succede al nord, nel nord Europa, dove il consumatore può consegnare la bottiglia vuota a un piccolo incentivo e noi recuperiamo materiale, che se no facciamo l'opera meritoria. Gli ecocompattatori in Italia ci sono, ma fino adesso sono stati molto limitati nelle molto loro limitati. Possibilità. Se lei va in Svezia, lei va in Germania, li trovi in ogni negozio. E quindi c'è, come sempre, il cittadino che ci deve comportare in modo conseguente, ma funziona. E a quel punto quei paesi dispongono di un materiale che diventa prezioso che noi non abbiamo. Quindi è inutile arrivare al 100% se non abbiamo quella materia prima. Per farlo, esattamente. Tra l'altro questo che lei ci ha detto risponde già alla domanda di un ascoltatore, insomma, sull'utilizzo della plastica riciclata. Professor Frey, le chiedono anche se le bioplastiche vanno nell'umido. Lei ha accennato, non è il suo campo specifico ovviamente, però la questione delle bioplastiche è ampia e da discutere. Per esempio possono rappresentare un problema per gli impianti che fanno poi il compost, insomma, secondo sì, qualità e quantità possono essere un problema. Sì, il problema è quello che citavo precedentemente, perché il concetto di bioplastica in realtà si associa a diverse tipologie di plastiche bio. Il problema è se sono anche di fonte rinnovabile dal punto di vista delle caratteristiche, oltre che compostabile, in aggiunta a quello che dicevo precedentemente. Quindi diciamo che in linea di massima, quando sono compostabili, ovviamente possono andare nel compost, quindi nell'organico. In altre circostanze creano un po' di difficoltà invece poi al processo successivo, quello che viene gestito dalle aziende a valle. Quindi è un comparto in cui bisogna ancora fare completa chiarezza se si vuole poi facilitare un corretto comportamento da parte dei consumatori e quindi un corretto poi riutilizzo nella fase successiva, perché sappiamo che l'organico ormai ha possibilità di riutilizzo estremamente interessanti, ci sono nuovi impianti che arrivano a produrre addirittura biometano, che quindi poi servono per muovere i mezzi o di chi fa la raccolta differenziata direttamente, così chiudiamo completamente il cerchio, come dicevamo prima, o comunque messi a disposizione di una mobilità più sostenibile. Ho un'ultima domanda per il presidente Calzolari e riguarda proprio l'utilizzo di questi nuovi materiali. Per voi è vantaggioso? Riuscite a farlo senza cambiare per esempio la catena di produzione, quindi lo inserite e andate a sostituire, o si tratta di un investimento che vi stravolge completamente? Allora, nel caso della sgrammatura, diciamo che è una tecnica, un'implementazione della rete delle nostre linee di produzione. In caso di nuovi materiali ovviamente cambia. Faccio l'esempio dello yogurt. Noi stiamo passando dal vasetto di yogurt, l'abbiamo già fatto per una linea che è Yomo Natura, che è in plastica, a quello di carta. Ecco, in questo caso invece bisogna proprio stravolgere la nostro impianto, le nostre linee, quindi occorrono investimenti. Non ci arriveremo, pensiamo, in un anno e mezzo, 18 mesi, 24 mesi a sostituire tutta la plastica dei nostri yogurt con carta, quindi rientriamo nel ciclo virtuoso del riciclo, perché parliamo di prodotti carta e prodotti accoppiati assolutamente riciclabili. Anche qui parliamo di numeri importanti, parliamo di 1273 tonnellate in meno di CO2, che corrisponde a un bosco di 52.000 piante, per capirci. Cioè, è possibile farlo, in alcuni casi è ricerca, in alcuni casi è ricerca abbinata a significativi investimenti. Se posso dire, la polemica che abbiamo intrattenuto con il governo nel mese precedente sulla plastic tax. Lasciateci fare investimenti piuttosto che tasse. Chiedeteci di fare gli investimenti. E invece facciamo le tasse e non gli investimenti. Gianpiero Calzolari è il presidente di Granarolo, la ringraziamo. Marco Frey, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Torniamo dopo GR24. Si può fare. Si può fare. può fare. Benvenuti nella casa del divertimento, dicono i Madness. Bentornati in nostra compagnia. Proseguiamo in questa puntata di Si può fare, parlando di ciò che si fa a casa. 824 0024 per le vostre telefonate. Tra poco cominceremo a sentire qualche ascoltatore. Poi c'è sempre il 349 238 6666. E se riesco rispondo anche ai vostri messaggi. Qualcuno mi ha chiesto dove gettare, che so, il pacchetto del caffè o così via. Se non è esplicitamente scritto sulla etichetta, dovete gettare nell'indifferenziato. Marco Malvaldi, buongiorno, ben ritrovato, buona domenica. Buona domenica, io vado gettato nell'umido, lo ricordo agli ascoltatori. Ma quando sarà? Quando sarà? Beh, ci sono cose che si possono fare a casa, a volte abbastanza incredibili. L'altra volta abbiamo parlato del fatto che si può fare... si può fare scienza con il linguaggio. Oggi racconto il fatto che si può fare scienza stando a casa e facendo il lavoro degnissimo, utilissimo della casalinga. Perché a fine Ottocento un grande scienziato inglese, Lord Rayleigh, era partito da un'osservazione di Benjamin Franklin per misurare gli atomi. Benjamin Franklin aveva versato un cucchiaino d'olio sulla superficie di un lago, il Clapham Pond in Inghilterra, e aveva visto che l'acqua, che era ondulata, era diventata liscia per una superficie di circa mezzo acro. Se avesse creduto all'esistenza degli atomi, Benjamin Franklin sarebbe riuscito a fare un ragionamento molto interessante, cioè a dire: questa lamina larga mezzo acro deve essere spessa più o meno un nanometro. Ritorniamo al nano di cui si parlava prima, esattamente lo stesso nano a cui si riferiva il professor Frey. Quindi una molecola può essere grande al massimo un nanometro. Lord Rayleigh aveva ripreso gli esperimenti di Benjamin Franklin, che purtroppo non credeva agli atomi e quindi non aveva fatto questa semplice divisione, e aveva pubblicato i suoi libri. Nel frattempo, mentre Lord Rayleigh a Londra misurava molecole con ineffabile precisione, a Braunschweig, nella Bassa Sassonia, la signorina Agnes Pockels si rompeva le scatole perché, pur essendo laureata in chimica, aveva una malattia genetica che alla fine dell'Ottocento la condannava a non potersi esprimere appieno come scienziata. Cioè, era nata donna. E quindi era stata avviata una promettente carriera di sguattera e si era costruita nel lavandino di casa un apparato per misurare la tensione superficiale dei liquidi, la forza che richiedeva sollevare un bottone dal pelo dell'acqua. Ok. Quindi aveva fatto tutto nel lavandino di casa, con bottoni, con fili, con aghi, con olio e con acqua, e aveva, dopo che aveva, diciamo, ottenuto i suoi risultati, aveva scritto a Lord Rayleigh dicendogli: guardi, io col mio apparato, secondo me, ho fatto delle misure più precise delle sue. E Lord l'avrà presa benissimo. No, invece si è meritato proprio in pieno il suo titolo, perché ha scritto alla rivista Nature... dicendo: vi sarei obbligato se poteste trovare spazio per la traduzione che vi accludo di un'interessante lettera di una signorina tedesca, la quale ha replicato i miei esperimenti con molta maggiore precisione. E firmato semplicemente Rayleigh. Ecco, la cosa meravigliosa è che chiaramente, la Nature pubblicò la lettera, il mondo venne a sapere le dimensioni esatte di una molecola di olio, 1,3 per 10 alla meno 9 metri, e chiaramente Lord Rayleigh, venne apprezzato moltissimo per questa sua cortesia. Miss Pockels dovette aspettare solo un pochino di più per veder riconosciuto il proprio valore a livello accademico, perché il dottorato ad onorem in chimica le venne conferito nel 1932, aveva 78 anni. Capito. Vedi, la storia è piena di cose che si possono fare in casa, anche cose che uno non immaginava, no? Non te la saresti mai aspettata questa, eppure è successa in casa. Allora, Marco, io so già che molti dei tuoi romanzi invece nascono anche in giro, poi in casa tu li ovviamente scrivi. Io sono un'appassionata di bricolage, tu? O sei no, io non sono zero. Beh, diciamo che il bricolage per me è un modo per imparare nuove interiezioni, ecco, mettiamola così. Mia moglie è soprannominata Annie Manny perché è in grado di riparare qualsiasi allora cosa. Allora devi presentarci, tra MacGyver ci intenderemo. No, io e il bricolage siamo veramente due mondi. Io sono in grado di fabbricare una bomba atomica con un tavolo e un cacciavite, ma del modo del tutto involontario, ecco. Adesso tra pochissimo abbiamo l'interruzione classica della viabilità, abbiamo poi dopo invece chi dei lavori con il legno, del fatto in casa, insomma ha fatto una professione e ben riuscita, tra l'altro io ho conosciuto queste persone a Bruxelles in particolare perché erano stati premiati per i loro lavori. Vorrei solo dare una precisazione, visto che ancora qualche secondo prima della viabilità, su quanto abbiamo affrontato ieri. Si parlava, Marco, ieri di rotte del cibo e l'abbiamo fatto con il professor Riccardo Valentini dell'Università della Tuscia, tra l'altro tra i premiati scienziati ai tempi del Nobel attribuito all'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei cambiamenti, dello studio dei cambiamenti climatici. Lui è anche un collaboratore della Fondazione Barilla e a quanti mi hanno chiesto informazioni su rotte del cibo e questioni connesse, direi di fare riferimento per l'appunto al sito della Fondazione Barilla, il Centro for Food and Nutrition, perché ci sono degli approfondimenti su Fixing the Food Business e quindi proprio su come aggiustare il tiro nell'industria e nel business alimentare. Quindi il riferimento è quello, abbiamo la viabilità e tra pochissimo torniamo a parlare di quanto si fa in casa. Si può fare. Si può fare. E faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa. Perché nella casa faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa, perché nella casa faccio la mia cosa. Ed eccoci qui di nuovo insieme. Abbiamo un ascoltatore, Marco, che ci chiama. Si riferisce, Marco, al tema che abbiamo affrontato all'inizio sulla raccolta differenziata e ha delle precisazioni, non so, delle richieste da fare. Lui è Matteo, ha chiamato da Roma. Buongiorno, Matteo. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Grazie. Spazio, sì, stavo sentendo la vostra trasmissione e mi è venuto, diciamo, in mente un tema, diciamo, che stiamo cercando di diffondere e portare più alla consapevolezza. Parliamo di raccolta differenziata, ma spesso magari non ci chiediamo se una persona con disabilità può o meno farla, ovvero nella pianificazione, progettazione che un comune fa della raccolta differenziata, la mia domanda è: si tiene in considerazione magari delle esigenze delle persone con disabilità? Faccio un esempio. Non ho una risposta, ho capito. No. Non lo so se nel suo comune è una domanda provocatoria. Assolutamente, e quindi è proprio questo, cioè noi dovremmo cominciare, quando parliamo di sostenibilità, sappiamo che ormai la sostenibilità ambientale si va a intersecare con le altre due dimensioni, economica e sociale, quindi non c'è una vera sostenibilità se poi non si considerano le altre tre dimensioni. Quindi, certo, ha ragione. Diciamo, il mio appello, la mia considerazione a chi si occupa, a chi, diciamo, progetta queste cose, è tenere in considerazione anche le esigenze delle persone con disabilità, considerando, certo, che Marco, non ci rubi la trasmissione, ho colto perfettamente, sia nella progettazione, dice lei, sia da un punto di vista proprio della raccolta, aiutare e facilitare chi ha delle disabilità, dico bene, giusto? Sì. Matteo, non la sento più, però grazie. Sì, ah sì, no, ecco, ecco, grazie, sì, grazie del suo intervento, davvero è nulla, prezioso, e speriamo che ci abbiano ascoltato, no Marco? Assolutamente, assolutamente, questa è una delle, di quelle cose che, appunto, di quelle grandi domande che in realtà a volte sono talmente grandi che nessuno le vede, invece sono fondamentali. Fondamentali. Allora, arriviamo all'ospite di cui vi parlavo prima, parliamo di chi con le mani sa fare veramente di tutto, Luigi Cuppone, mi fa tanto piacere ritrovarti, artigiano del laboratorio Linfa di Orte, buongiorno e come stai? Ciao Laura, sto benissimo, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il laboratorio, come funziona, cosa fate e come vi date da fare? Insomma, non siete casalinghi, chiaramente siete professionisti lì, però partite da spunti anche domestici. Assolutamente sì, noi ci occupiamo di recuperare, ricondizionare legno di scarto e con questo realizziamo mobili, installazioni, anche qualche volta delle opere artistiche. E questo lo facciamo sul territorio cercando di assorbire quello che per alcuni è uno scarto, e quindi dalla vecchietta che ci lascia il suo mobile antico perché non vuole, il nipote non vuole più, non lo vuole più tramandato, oppure dei serramenti, oppure gli imballaggi di cui avete parlato prima questa mattina, e quindi degli imballaggi tipo il pallet, che è diffusissimo, ma è anche altrettanto diffuso quello che è rotto e che quindi qualcuno di cui qualcuno se ne vuole disfare. Quindi e direi, Luigi, adesso per, così poi lascio la palla a Marco, voi sì, siete capaci di vedere dentro un oggetto quello che è e anche la sua possibile trasformazione, uno sforzo assolutamente anche, sì, non solo con le mani ma di fantasia. Diciamo che la prerogativa è quella di recuperare il massimo possibile di legno, un materiale preziosissimo che stocca CO2 e che va tutelato in tutti i modi, perché ci permette di avere dei mobili duraturi, e quindi proprio per questo noi utilizziamo il legno recuperato cercando di, come dici tu, in modo più creativo e fantasioso realizzare delle cose con i peggiori scarti, in modo da riuscire a raggiungere, no, come dire, un risultato fantastico, cioè quello di prendere un materiale che è assolutamente da buttare perché magari non ha nemmeno proprietà fisiche più, ma soltanto delle proprietà estetiche dovute magari all'invecchiamento, all'usura o ai raggi UV, e noi riusciamo a resuscitare in qualche modo le sue proprietà rendendo cerato, finito con trattamenti naturali, e quindi cerchiamo in qualche modo di non impattare in nessuna delle fasi di ricondizionamento e di realizzazione dell'oggetto. Marco, curiosità tue. 10.000, però la prima è questa, il vostro metodo, nel senso, è chiaro che un designer normale parte dal progetto e poi cerca i materiali adatti, voi questa cosa non potete farla, quindi mi chiedo, nasce nella realizzazione, nasce più dai materiali a disposizione o dal progetto? Cioè, se avete pallet, probabilmente avete un modo standard di fare dei mobili con questi pallet, mentre per altri mobili un po' più particolari dovete di volta in volta pensarlo. Sicuramente il pallet permette di efficientare un po' i processi, perché hai in linea di massima delle misure standard, no? Come dire, non sono così tanto standard, ma bene o male sono quelle le misure delle tavole che vengono staccate, e questa è già una cosa importantissima, il fatto di in qualche modo noi ci siamo opposti alla moda del pallet così com'era dentro casa in stile ready made, sì, no? Ma invece far Ma tornare tiro, diciamo, al materiale, cioè, in quel modo tu puoi fare un po' quello che vuoi. E ovviamente la limitazione, che è proprio nella parte della filosofia di Linfa, è quella di adattarsi, quindi questo spirito di adattamento parte nel momento in cui abbiamo dei pezzi che non possono essere recuperati a livello strutturale, ad esempio in un mobile, e cerchiamo di impiegarli in opere artistiche oppure degli oggetti che necessitano, no, magari di una tassellazione di pezzettini che va a creare una texture superficiale magari allettante per un cliente, e per noi quello è, come dire, recuperare qualcosa che non poteva essere recuperato. Sicuramente il progetto è a cavallo fra la progettazione classica di un oggetto, quindi funzionale, ma poi si scontra con, come dici tu, con le necessità che si hanno di smaltire un certo tipo di legno. Sicuramente è fantastico quando è lo stesso pezzo di legno che ci ispira, diciamo, a realizzare qualcosa, un po' come faceva Geppetto con Pinocchio, no? Cioè tirar fuori l'opera che già è nel michelangelescamente legno, ancora più di valore, insomma. Sicuramente il processo è difficile, ma è parte della nostra sensibilità ambientale quella di adattarci al mobile. Quindi spieghiamo sempre al cliente che mai un oggetto sarà uguale all'altro. C'è chi questa cosa la prende come una cosa positiva. Ma come vi funziona? Cioè io, per esempio, mi metto in contatto con voi e vi dico: ho bisogno di una cassapanca e voi mi proponete qualcosa? Oppure uno guarda i progetti che voi avete già elaborato in questo che chiamate, e non solo voi, si chiama upcycling, cioè sì. No, prendo una cosa bassa e la rinalzo a prodotto. Gli do un valore, certo, gli do un valore maggiore, perché se pensiamo che un pallet nuovo, medio, costa circa 15 euro, se lo vai a prendere usato ti può costare anche 3 euro 4 euro, se io quello stesso materiale riesco a, come dire, intarsiarlo, no? Intagliarlo, farci delle lavorazioni particolari che lo valorizzano grazie alle abilità ovviamente dell'artigiano, della persona che gli sta appresso. Questa è, diciamo, un processo virtuoso che permette poi a quell'artigiano di sopravvivere, perché magari è partito da un materiale che non aveva costo, il costo che aveva era il disassemblaggio dell'oggetto, quindi perderci del tempo, che è una cosa preziosissima ora, e che però secondo me è il ponte proprio con il discorso che voi fate sull'ambito domestico, nel senso che una persona a livello domestico può rendersi conto del valore che ha l'artigianato e il saper fare, e quindi grazie anche a dei lavori fatti in casa da soli si può apprezzare il lavoro che viene fatto da un artigiano, che assolutamente non è quello di una catena industriale, nel senso che abbiamo dei mobili sicuramente più duraturi perché vengono maggiormente controllati, e come dici tu, quando mi chiedi della cassapanca o meno già realizzata, sicuramente io preferisco fare una cosa ad hoc, perché penso che in quel modo riesco a soddisfare al massimo il mio cliente anche a livello funzionale, perché magari lui non pensava che un mobiletto fatto in un certo modo poteva aiutarlo in alcune cose, come per esempio anche aiutarlo a fare delle buone pratiche ambientali. Quindi a noi quello che piace certe volte è anche, oltre a sensibilizzarlo a livello estetico, anche fargli capire che alcune accortezze nell'oggetto possono portare lui a fare delle buone pratiche, a non impattare, ad esempio. Mi incuriosirebbe farvi vedere quello che abbiamo nelle nostre cantine, Marco, non lo so la tua, e vedere se loro ci vedono qualcosa là dentro. Assolutamente, fra l'altro no, gli chiederei anche se sono in grado di, diciamo così, tracciare la carta d'identità di quello che gli do, perché alcuni pezzi di legno possono essere, diciamo così, ambientalmente non troppo friendly, magari sono stati trattati con vernici o con altri materiali di trattamento, non dico tossici, ma comunque non che uno oggigiorno non si metterebbe in casa. E voi come fate a tracciare la carta d'identità dei pezzi che vi arrivano, di quelli, diciamo, non di recupero, ecco? Sì, allora in linea di massima noi, per quanto riguarda gli imballaggi, e quelli possono, diciamo, essere un po' più pericolosi perché uno veramente non sa quali strade ha preso e da che paesi è venuto, no? In linea di massima noi utilizziamo i pallet che sono certificati o FSC o PEFC, e quindi sono dei pallet che hanno delle garanzie di non essere trattati, per esempio, con trattamenti di affumicazione che sono dannosi per l'uomo, tossici, che sono vietati in Europa, e quindi ad esempio quei pallet che si vedevano una volta tutti blu, colorati, certe volte avevano delle sostanze di questo tipo. Adesso i trattamenti sono ad alte temperature, quindi non sono dannosi, e all'interno del materiale di solito non c'è questo tipo di materiale. Comunque tutti i trattamenti che noi facciamo di ricondizionamento sono fatti in massima sicurezza, noi abbiamo le mascherine, nel senso, certe volte c'è per esempio quel pallet che ha del cemento dentro, che è scolato magari da delle mattonelle che conteneva, in quel caso sicuramente il pulviscolo di cemento può essere dannoso, ma una volta che noi l'abbiamo asportato con tutte le dovute attenzioni e accortezze, poi viene appunto cerato, la ceratura che facciamo noi è con diluente naturale. Scusa. Sì. Ecco, voi è vero che usate la poseidonia per cerare i mobili? Anche? Allora, noi... questo me la ricordo di aver visto, sì. Per questa accortezza che abbiamo, no? Noi facciamo una ceratura con un diluente che è un terpene d'arancio, quindi un diluente naturale, che profuma invece che magari un'acquaraggia che può darci alla testa. E tirare la cera, che è una delle cose che valorizza nel modo più assoluto il mobile, no? Pensiamo al mobile della nonna, quello... è stato cerato forse 40, 50, 60 volte nella sua vita, perché una volta all'anno almeno la nonna andava lì a strigliarlo con la cera. Quello è quello che in qualche modo valorizza, crea la patina nella finitura del mobile. E quindi noi in qualche modo cerchiamo di riottenere quella cosa attraverso una lavorazione a mano. Quindi tirando la cera, no? Il famoso detto, metti la cera, togli la cera. Quella è olio di gomito, quindi... strigliare i mobili tirando la cera, e quando lo facciamo al top è quando succede appunto che abbiamo la posidonia degli egagropini di posidonia, che sono apparentemente quelle palline che si trovano, fantastiche, un tempo venivano utilizzate per riempire i materassi dei nostri nonni. Con adesso effetto massaggiante, possono... adesso possiamo utilizzarle anche per questo. Luigi, scusa se ti fermo, ma dobbiamo appunto dare spazio a informazioni pubblicitarie e quant'altro. Quindi Luigi Cuppone del laboratorio Linfa di Orte, se avete posidonie da mandargli, mandatele, che lui ne fa un grande uso per lustrare mobili con metti la cera e togli la cera. Grazie Luigi, ciao. A voi. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Tra le tante cose che si fanno a casa in questo periodo c'è sicuramente giocare con il computer, ovviamente, e con internet. Non so a casa tua come va, Marco. Beh, tanta banda vanno via così, eh. Assolutamente, perché ci sono dei mega tornei di Fortnite che rappresentano il momento sociale fondamentale della vita di mio figlio, quindi quelle o due ore gli sono dedicate e non si può fare niente. E non giocano da soli i ragazzi, giocano con tanti altri, perché è un po' diverso da come funzionava un tempo. Qui quando si stava su Tetris, direi, no? Era un gioco solitario, oltre che alienante. Ora magari uno dice alienante anche quello di oggi, ma non è più solitario, sebbene tu giochi giocatore in casa tua, magari da solo davanti al computer, ma sei in relazione con un sacco di altre persone. Allora, un grande esperto di tutto questo e di come funziona oggigiorno è Federico Brambilla, che è proprietario di Team Xseed, che è un'eccellenza italiana di e-sports, quindi parliamo di sport e elettronici nel mondo, parliamo quindi di qualcosa che non è limitato alle nostre camerette. Ci abbiamo Federico Brambilla in linea? Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Benissimo, grazie. Io non capisco niente dell'argomento, se non quello che mi ha spiegato Edoardo Lavezzari, che è l'assistente al programma. Io sono ferma Benissimo. A Tetris e alle scimmiette di una volta, mentre so che Marco appunto è molto più preparato, quindi io ti affiderei alle mani di Marco Malvaldi a questo punto. Va benissimo. No, non sai che guaio ti sei messo. No, allora, la prima cosa che ti chiedo, e questa sì. potrebbe sembrare una provocazione, ma... No, la prima la faccio io, deve dirci cos'è Exceed, scusami, questa è proprio basic per tutti. Va bene, allora, Exceed è quello che in gergo nel mio settore si definisce come team esports, quindi come giustamente hai spiegato tu prima, è un team che basa la sua competitività su quelli che sono dei titoli videoludici, quindi dei videogiochi. È un po' come se fosse, magari per i neofiti, una polisportiva, anziché avere il tennis, il calcio, il basket, ha dei titoli di videogioco con delle squadre che competono a livello nazionale e internazionale su questi videogiochi. Ok, vai. Perfetto, ecco. Abbiamo fatto il cappello introduttivo. Esatto. Quindi, come una vera squadra, voi fate anche i ritiri, se non sbaglio. Sì, ragazzi, sì, perché è vero che avete fatto una bellissima intro, perché è vero che questo mondo è come qualsiasi cosa in realtà, se non si dà una sorta di metodo, è alienante, ok? E la squadra esattamente nasce per questo, perché a volte i giocatori sono giovani, ok? Possono essere anche minorenni, parlo di 16-17 anni in questo momento, e però come una squadra è giusto che noi diamo delle attività ai nostri ragazzi. Come una vera e propria squadra noi organizziamo dei ritiri invernali o dei ritiri estivi per dare senso di unione. Sostanzialmente l'ultimo è stato ad agosto, che abbiamo trasferito tutto l'intero team, che sono 45 persone, in una villa in Toscana, appunto per fare un ritiro per... Vengo anch'io! È stato bellissimo, sì, perché abbiamo spostato giocatori, staff in questo cottage in Toscana con la piscina, il campo da tennis, il campo da calcio, e abbiamo sostanzialmente fatto un ritiro tra di noi, che poi è un ritiro tra amici, tra persone che si conoscono, tra professionisti che comunque lavorano insieme, e quindi si cerca proprio di creare quell'idea di squadra sana, ok? Perché è importantissimo cercare di dare un'idea di squadra anche ai giocatori, al proprio staff, e non che sia un qualcosa che fai da casa nella tua cameretta, ma che sei, è vero, collegato con il mondo, ma quel mondo lì poi esiste, ci sono dei punti di contatto, possono essere i tiri, le competizioni, delle giornate sostanzialmente insieme di team building e via dicendo, però sì, è importantissimo. Ecco, in questo c'è un discorso che mi interessa, lo sport in generale è formazione, perché ha un risultato obiettivo, cioè quando quell'altro vince e tu perdi, non puoi, a meno che tu non sia il presidente degli Stati Uniti, dire che tu hai vinto e lui ha perso. Ecco, anche gli sport è formazione, specialmente in un mondo che va sempre di più verso il tecnologico e verso il virtuale. Quali sono le principali caratteristiche che si apprendono attraverso questo tipo di sport, secondo te? Allora, io parto sempre col dire che la grossa difficoltà di comprendere il settore è sempre quello di paragonare lo sport anche per assonanza. Io non penso che l'esports sia considerabile all'altezza dello sport. Non c'è una vera e propria attività fisica. Si può aprire adesso un dibattito tranquillissimo dove magari si parla di scacchi agli Olimpiadi e via dicendo, però lo sport l'esports è un mezzo di intrattenimento che colpisce esattamente un determinato pubblico, perché sono i più giovani, perché parliamo di millennials o tutta comunque l'era digitale. Apprendi perché comunque attraverso il videogioco ti relazioni, è vero, in una maniera diversa rispetto magari a, io ho 30 anni, come magari mi relazionavo io su un campo da calcio all'oratorio, come magari faceva mio padre giocando, o mio nonno, no? Giocando a carte al bar, però ti relazioni, quindi impari a relazionarti in una maniera diversa, perché ti relazioni in una maniera digitale, in un'era digitale, impari tanto in realtà, perché se sei seguito, perché poi la famiglia è importantissima, ma è sempre stata importantissima sulla crescita di un figlio, perché deve seguirlo in ogni passo, ed è normale che se il ragazzo gioca 12 ore al giorno, sicuramente non è un problema del ragazzo, perché tramite il videogioco puoi imparare l'inglese, tramite il videogioco ti metti in contatto con tante persone in giro per il mondo. Gli stessi videogiochi danno la possibilità di aprire i processi logici che magari molte non sono così scontate. Non potresti esercitare, esatto, in altri contesti. Esatto, o la statistica, quella che si apprende giocando a poker, si può imparare benissimo attraverso alcuni tipi di videogioco. Assolutamente sì. È molto stereotipizzato, questo è vero, ma perché a volte non c'è stato un controllo, ma come qualsiasi cosa, se c'è un controllo, se c'è un metodo, in realtà porta un sacco di benefici. Tutto quello ma che io è sentendovi parlare così mi è venuto finalmente il momento di capire perché vedo anche le mie figlie guardare qualcuno che gioca. L'avevo sempre ritenuto un'attività assurda, ma in realtà se io guardo come guardo Ronaldo in campo, posso anche guardare il migliore che gioca al mio gioco preferito e poi chiaramente cercare di emularlo, comunque scoprire qualcosa. Insomma, ha un senso come spettatore guardare chi gioca bene a qualcosa. Sì, nel senso che in realtà lo facciamo sempre, lo facciamo tutti i giorni. Infatti, guardare qualcun altro. Ritenevo assurdo guardare qualcuno che giocava a Minecraft, ma alla fin fine ho detto: beh, ma se quello, cioè adesso sentendovi, dico: vabbè, però se ho davanti il campione mondiale di Minecraft, magari ha senso. Esatto. Mio nonno andava a vedere giocare a briscola gli altri. Vai a vedere uno che pesca, è altrettanto assurdo volendo. Insomma. No, esatto, lì come tutte le cose. Il giocatore o il videogiocatore può essere sia attivo che passivo, ma come lo sportivo, no? Può essere sia attivo che passivo, quindi c'è una grossa componente passiva che magari guarda come mezzo di intrattenimento quella che potrebbe essere una competizione videoludica, quindi un torneo, o allo stesso tempo una figura di riferimento, no? Magari di un titolo che può essere sì un pro gamer, quindi il campione mondiale, il campione italiano, il campione regionale, ma allo stesso tempo magari tutte quelle figure digitali che si sono venute a creare, come magari quelle che sono nominate come influencer, no? Perché comunque influenzano un determinato tipo di pubblico da quel punto di vista lì. Però sì, è una cosa ormai abbastanza è sempre stata una cosa normale guardare delle altre persone che fanno delle cose dalla televisione, da quando è nata la televisione, da quando sono nate delle altre attività, appunto anche a livello sportivo, da quando sono nati gli stadi, i palazzetti, è fatto esattamente così. Ci sono due fette di persone in uno stesso momento, una parte più attiva che sta facendo l'azione, l'altra che in un certo senso la subisce da un punto di vista passivo. Una cosa, molto spesso alcuni videogiochi vengono tacciati di istigare alla violenza e a volte si assistono a polemiche abbastanza stucchevoli. Io mi ricordo in questo senso cosa diceva Umberto Eco, che diceva al figlio Stefano: per Natale ti regalerò fucili, perché dovrai imparare a distinguere fra realtà e fantasia. Ecco, questa del videogioco violento e dell'istigazione alla violenza, secondo me, è una delle, diciamo, delle domande meno capite e meno intelligenti della storia dell'umanità, perché noi abbiamo sempre giocato alla guerra, in qualche modo. Sì, è vero, è vero. Però ti dico anche, nel mio piccolo percorso di vita, perché ho 30 anni, e a volte ci relazioniamo tanto con le famiglie, ho fatto anche delle formazioni, passatemi il termine, anche se ho portato quella che è la mia esperienza anche in scuole, in famiglie, in genitori, comunque in ambienti accademici, parlando magari a volte appunto con le famiglie, e a volte c'è tanta ignoranza, nel senso che i videogiochi come i film, ok, c'è un sistema a livello di PEGI, ok, che ti dice cosa puoi giocare e a che età puoi farlo, ok? Se tu scusate se vi interrompo, ma purtroppo il tempo è quello che è, se tu non leggi queste etichette, non le interpreti e metti in mano un Kalashnikov a un bambino di 12 anni, chiaramente sei responsabile come genitore. Ci voglio tornare su questo tema. Federico Brambilla, grazie davvero, se tornerai ci farà molto piacere. A voi, intanto buona domenica. E in bocca al lupo, Team Exceed. Pausa, a tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Hey! E dopo i videogiochi cos'altro si può fare in casa? Si possono guardare i film, ma si possono anche fare i film. Con noi c'è Natalino Balasso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Comico, attore, lo conosciamo benissimo, dall'8-12, quindi dall'8 dicembre ci siamo ormai. Su YouTube esce La Supermassa, un film fatto, prodotto, tutto in casa, vero? Sì, possiamo dire fatto in garage, perché appunto è il garage che io uso di casa, anche perché se no devo divorziare. Però sì. È una cosa che possiamo definire hobbistica, visto che il mio lavoro è il teatro, però è una cosa che faccio da più di 10 anni e quindi insomma con molto impegno. È diciamo, per quello che abbiamo visto noi come trailer, in linea con tutta la produzione precedente, con un certo sarcasmo molto amaro, forse più calcato del solito. È venuto così per colpa dei tempi che sono? Ma non lo so, io cerco sempre il disincanto nelle cose che racconto, insomma è una cosa quasi naturale, non è una cosa ricercata, ecco. Però sì, la condizione umana di solito nelle cose che scrivo è vista dal punto di vista del perdente, e questa La Supermassa è proprio la storia di due perdenti. E che però cercano un riscatto, una vendetta, ovviamente. Cos'è la supermassa? La supermassa è il superamento di questo concetto che ci raccontava Umberto Eco anni fa, e cioè il fatto che la televisione aveva imposto una nuova figura di supereroe che è appunto il superuomo di massa, e lui parlava di Mai Buongiorno, che era visto dal pubblico col sottotesto, col pensiero, vabbè, anch'io posso fare quello che fa lui, insomma, e quindi nel film questo tipo di televisione, che poi è andata per la maggiore, è raccontato come l'imbranato consolatorio, cioè un personaggio che diventa famoso perché tutti lo vedono, ma che non ha doti particolari, ecco, o perlomeno non ha doti artistiche particolari per apparire in televisione. Adesso però al centro della scena, questo racconta il film, al centro della scena c'è il pubblico, non c'è più, l'artista non è più al centro della scena. Oggi il centro della scena è occupato dal pubblico, e quindi non abbiamo più dei super uomini di massa, non abbiamo più dei picchi, ma c'è la supermassa, un'intera popolazione che è al contempo protagonista e spettatrice. Hai capito, Marco, perché dicevo che c'è una certa vena? No? No, ma qui Natalino Balasso è sempre stato uno dei miei numi titolari, fra l'altro ha sempre fatto ridere prendendo degli estremi opposti. Io mi ricordo che nello stesso momento era il professor Anatoly Balas, quindi un accademico di formazione, ma anche Natalino Balasso della Lurido Films, quindi un porno attore. Diciamo così, che spesso si trovava a recitare in parti non desiderate. Ecco, quanto Balasso, quanto è difficile far ridere oggi, che, mi perdoni la banalità della domanda, la realtà è molto più comica della fantasia. Se lei avesse organizzato un comizio elettorale in un parcheggio 10 anni fa avrebbero riso tutti, oggi no. Diciamo che questo è anche merito o demerito, per meglio dire, di tutto l'apparato comunicativo odierno, di cui voi peraltro fate anche parte, io faccio parte. E quindi ce lo possiamo dire. Ce lo possiamo dire fra di noi, cioè c'è stata una ricerca spasmodica del paradosso, e il paradosso non è più paradossale, ecco, questo si può dire. Il paradosso non è più paradossale, per cui questo peraltro può portare anche a degli estremi, no? Cioè il fatto che sdoganiamo la menzogna, quindi non è, non è più la bugia che io racconto per farmi votare, mentre prima era una cosa di cui un po' ci si vergognava e si cercava di non portare alla luce. Oggi, quando qualcuno porta alla luce una bugia che tu dici in campagna elettorale, tu dici vabbè allora è normale, è un caso normale. Ma mi avete frainteso. Allora, questo film che abbiamo detto esce l'8 di dicembre, lo troverete su YouTube, è gratis, la visione è per tutti, visti i tempi difficili. Natalino Balasso ha preso questa decisione. Si può contribuire pagando il biglietto, ove lo si potesse, desiderasse o si volesse fare delle donazioni anche superiori, immagino, no? Si può anche dare 100.000 euro se uno vuole. Io invece ho scritto esattamente il contrario, e cioè che non, siccome sono uno che non ama avere debiti morali, preferisco, come sta succedendo poi, ci sono quasi 1.000 persone che hanno contribuito, altri vogliono contribuire, però con pochi soldi, con pochi, c'è gente che mette anche un euro, due euro, ecco. Ed è perché è un segno, è un gesto d'affetto. Oltretutto non è che lo faccio per andare incontro al pubblico gratuito, visti i tempi, no, è che i cinema sono chiusi. E quindi è così per forza, volente o nolente. Vi devo interrompere tutti. Marco Malvaldi, ci troviamo domenica prossima. Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo per questa puntata, Matteo Ramelli in assistenza, Peter Bescapè in regia, da Laura Bettini. Buona domenica.